Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, buongiorno. Chiedo scusa a Adriana Cerretelli, che è una delle nostre ospiti e che è inviata a Bruxelles del Sole 24 Ore e che è, direi, l'unica mitica giornalista italiana che veramente segue le questioni europee con serietà e quindi, diciamo, è l'unica in realtà, me compreso, che dovrebbe stare qui a trasmettere e a informarci sulle elezioni europee, che naturalmente sono completamente scomparse come vero materiale di confronto, di conflitto e di scontro in questo mese elettorale. Però devo partire, per tirare un po' sull'ascolto, con una stupidaggine. Me lo consentirete, spero. E quando dico me lo consentirete, mi riferisco a Stefano Folli, che è appena arrivato, anche lui notista politico del Sole 24 Ore, a Renato Farina di Libero e a Luigi Manconi, che insegna sociologia dei fenomeni politici all'Università Yulm di Milano e ha appena tirato fuori un libro interessante, Un'anima per il Partito Democratico, la sinistra e le passioni tristi, è il sottotitolo. Devo partire con una stupidaggine, cioè con una cosa politicista e anzi, forse eticista, non so come definirla. La lettera di Michele Magno al Riformista. Caro direttore, morale ed etica sono due termini che designano la stessa cosa, usi e costumi. Ebbene, la condanna degli usi e dei costumi privati di Silvio Berlusconi ha infiammato i cuori della sinistra. Le elezioni si sono così trasformate in una specie di ordalia sul cavaliere, sul suo stile di vita festaiolo, sulla sua baldanza erotica, sulla corte dei miracoli di cui si circonda ad Arcore. Temo che questa scelta di usare l'appello alla morale come un'arma politica anche questa volta non pagherà. La morale e i costumi privati ed erotici del cavaliere e le chiappette che abbiamo visto fotografate sul Pais a Villa Certosa come strumento di lotta politica, dice il vecchio militante della sinistra Michele Magno in una lettera a un giornale di sinistra. Tutto questo non pagherà. Vero? Falso? Non si sa, perché come diceva Jean d'Ormesson, e mi dispiace per Deborah Rosciani, ci sono tre cose alle quali non credo: la borsa, il meteo e i sondaggi. E quindi voglio dire, non si sa se pagherà. Comunque induce questo fatto il Michele Magno, che ha scritto la lettera che vi ho appena letto, a dire: voto, ma mi turo il naso, voto montanelliano, voto PD naturalmente, maturandomi il naso. È una stupidaggine, mi rendo conto, non c'entra niente con i veri problemi, diciamo, dell'Europa, con l'avanzamento dell'architettura comunitaria, eccetera, e con i problemi dell'occupazione, con i problemi del mercato unico, della moneta unica, della crisi globale, eccetera, eccetera. Non c'entra niente, ma devo partire di qui. La domanda è per Manconi. Siamo ancora lì, al voto col naso turato, alla paura della disaffezione, dell'assenteismo, alla discussione se fosse o no giusto dare addosso a Berlusconi sulle sue storie private? Sono due questioni distinte. Io non trovo alcunché di degradante o di mortificante nel votare tappandosi il naso. Da molto ritengo che la politica sia la ricerca del male minore o, se vogliamo usare una formula più rassicurante, del bene possibile, e dunque il voto non è un atto religioso. La scelta di un partito non è un rito sacro, è appunto valutare cosa c'è a disposizione e nel mercato politico, rispetto a un'offerta variegata, scegliere ciò che può ridurre i danni e può in qualche misura far procedere lungo un percorso che si ritiene positivo. Quindi scegliere di votare PD, ma siamo ovviamente un po' scaduti rispetto all'utilitarismo di un Bentham, che voleva, dicevo, il massimo utile per il maggior numero possibile delle persone. Esattamente. Siamo però al male minore. Sì, assolutamente, come tutta la politica. Penso che questo sia addirittura un fatto positivo e penso che al di là della ideologia residuale o dell'euforia occasionale dei momenti di successo di uno o dell'altro partito, la scelta razionale degli elettori è in genere dovuto a questo calcolo. Positivo, razionale, ma triste. Voglio dire, usciamo dal secolo dei domani che cantano e esatto. Siamo al male minore. Triste, almeno cioè l'utilitarismo. È il disincanto, di... è il disincanto. Siccome sono in crisi definitivamente le grandi ideologie, si sceglie sulla base di un calcolo razionale. Lei ha scritto un libro, Manconi, L'anima del Partito Democratico, il cui senso è inutile stare a discutere sempre di leadership, di regole, eccetera. Vediamo chi siamo. Ecco, siamo il partito che si è visto in queste 3-4 settimane, cioè che addenta, io lo capisco in termini diciamo di... uno ci prova, però che addenta questa storia del costume privato di Silvio Berlusconi e sulla scia di Repubblica ne fa il centro del centro del centro di una campagna elettorale? Secondo la lei questo corrisponde all'identità del PD? No, la risposta è nettamente no. Io penso addirittura che costruire la propria azione sulla mala azione dell'avversario sia segno di dipendenza e di assenza di autonomia. Purtroppo la campagna elettorale è stata questa, ma faccio un riferimento a qualcosa che comunque è stato presente negli ultimi mesi: una iniziativa del PD e del suo segretario sulla questione dell'immigrazione ha dato in alcuni momenti il senso di una identità di opposizione, di sinistra, che a mio avviso contribuisce a fare del Partito Democratico un soggetto dotato di suoi valori, di suoi riferimenti e appunto di un inizio di sua identità. Certo, se poi invece siamo costretti, il Partito Democratico è costretto a battersi intorno alle scelte private del Premier, che pure a mio avviso hanno una rilevanza pubblica, qui siamo nel pieno di una congestionata campagna elettorale e dunque non può emergere l'identità del PD in questi che sono necessari scontri, ma non certo il cuore della politica. Sentiamo un commento di Renato Farina, che è ovviamente giornalista di Libero, insomma è un cattolico questo. Militante, eccetera. Vogliamo sapere, prego Farina. Ecco, è ovvio che la politica non è la soluzione dei problemi umani, per cui ha ragione Manconi quando la relativizza. Il problema è che la sinistra fino adesso ha nella sua corsa storica ha avuto sempre un po' la pretesa invece di proporre il paradiso in terra. Io ricordo ancora Prodi quando nella campagna elettorale, che forse vinse, forse no, ma comunque diventò premier, lui sostenne che avrebbe organizzato la felicità. Adesso si devono accontentare di promettere il purgatorio. Ecco, questo è un po' il segno dei tempi. Mentre c'è però Farina, e lo dico sperando che da lei venga anche un elemento critico, autocritico su quello che succede, diciamo, nel nostro mondo di riferimento, quello che ha Berlusconi come grande ombrello variopinto, c'è però una coerenza tra l'idea di Prodi, sfortunata nell'applicazione, di portare la serietà al governo. Adesso la parola d'ordine è sobrietà al governo. Un pochino più sobri non potremmo diventare, Berlusconi compreso? Un pochino, mica tanto, dico, un pochino. Ma questo potrebbe dirglielo lei a Berlusconi. Io glielo dico, glielo scrivo, ma adesso lo sto dicendo a lei. Potrebbe dirlo anche a Renato Farina. Potrei dirlo anche a Renato Farina, che è sobrio peraltro. Farina, non è che volevo alludere a sue non eccessi. Sobrietà personali, a suoi eccessi. No, certo, ma guardi... lo dica che siamo un po' in mutande, Farina, su, lo dica, sono 3 settimane che siamo in mutande, Farina. Siamo smutandati. Sì, smutandati. Sarebbero già qualcosa di importante. Bravo, finalmente si è sciolto Farina, le mutande sarebbero qualcosa di importante. Siamo smutandati, questo è il problema, sembra che il centro della vita sia questo, no? Cosa che, è una cosa importantissima, una volta si diceva che la Chiesa pensava solo al sesso, adesso mi sembra che la sinistra che è ossessionata da quella che ritiene l'ossessione di Berlusconi e spera di incastrarlo lì. Ecco, mi sembra bene. E dico a Adriana Ceretelli di non disperarsi, perché naturalmente lei che ha scritto stamattina un bellissimo articolo di analisi sull'ondata di euroscetticismo in arrivo, perché noi, mentre noi parliamo di queste bellurie e frivolezze, senza voler essere provinciale, senza voler pensare che questo è un fenomeno solo italiano, perché diciamo anche il povero ministro Gordon Brown sta lì a discutere se il suo di DVD pornografici. Sì, di DVD pornografici di un ministro dell'interno, di suo marito, insomma una roba pazzesca. Però Cerretelli, adesso arriveremo alla vera questione, insomma, cos'è l'Europa e perché la gente non ama più l'Europa, che lei affronta nel suo articolo di stamattina. Volevo però prima sentire da Folli un giudizio politico razionale, visto che io non sono stato capace di darne fino ad oggi. Meglio Manconi e anche Farina, prego. Un giudizio politico razionale, sì, sulla, che sta succedendo? Sulla, qui sul si fatto va a che siamo votare. Smutandati? No, qui si va a votare. E allora ci sono le asticelle, che è una delle cose più ridicole del mondo. Sì, il gioco delle asticelle. Sì, cioè noi abbiamo avuto la proporzionale per tanti anni. Almeno però c'erano le coalizioni, si sapeva chi aveva la maggioranza e chi no, pentapartito, De Gasperi. Vero. Adesso con l'Europa, dopo tutto il maggioritario che si sa, ha vinto Berlusconi, ha vinto Prodi, adesso non si saprà chi ha vinto, perché 40, 41 il PDL, 39... 27, 24, 29, non so com'è la faccenda. Ma intanto dico, quello che diceva Manconi è molto giusto, e anche quello che ha detto Farina. Resta il fatto che quando parliamo di come si sceglie il partito col naso turato, il male minore, il bene possibile, dobbiamo considerare che adesso siamo anche in un campo, le elezioni europee, in cui viene meno tutta una serie di fattori che entrano in gioco quando si vota per casa nostra, no? Per il voto nazionale. Qui siamo veramente in un campo rarefatto e quindi è ancora più difficile prevedere, capire, tanto vedere quanta gente andrà a votare, perché insomma non sarà mica un elemento da nulla. E poi insomma queste elezioni sono soprattutto un grande sondaggio, no? un test se Berlusconi è ancora così popolare, se il Partito Democratico ha trovato un barlume di identità. Tutte cose difficili da definire. Ecco. Se la Lega supera il PDL nel Veneto. Per venire alla domanda, è chiaro che all'interno di un sondaggio, di un grande sondaggione, queste cose in qualche modo influiranno, perché è chiaro che se la Lega nel Nord dimostra di essere un partito in gran salute, che sgomina la concorrenza, perché c'è sempre stata una concorrenza con il Popolo della Libertà evidentemente, e però dimostra di essere in buona salute rispetto a un Berlusconi eventualmente ferito in qualche modo da tutte queste vicende, beh, questo avrà degli effetti, indubbiamente avrà degli effetti sugli equilibri di governo, sullo stato delle cose all'interno della coalizione di centrodestra. Sentiamo Silvestro da Rieti. Silvestro pone un problema apparentemente politologico, ma forse importante, mi dicono qui nella scheda. Silvestro, prego. Pronto? Ah, Silve, sì, forza. Dunque, preciso, sono un elettore di centrodestra. Volevo chiedere all'onorevole Manconi, come fa a chiedere i voti all'elettorato di sinistra del Partito Democratico quando non sa ancora il Partito Democratico come si collocherà in Europa, se con il Partito Popolare, quindi con Berlusconi, oppure con i socialisti? Manconi, grazie di questo. La risposta però c'è già stata, e non da parte mia, che non ho alcun ruolo dirigente nel Partito Democratico, ma è stato detto in maniera formale, insieme autorevole, che si lavora per la costituzione di un gruppo unitario democratici e socialisti, al cui interno ci sarà appunto i democratici italiani insieme alle formazioni della tradizione socialista. Questo è un progetto che, per quanto io so, è non solo in corso, ma sta passando attraverso tappe accelerate, e dunque la collocazione europea dei parlamentari eletti nelle liste del PD è oggi un problema praticamente risolto. Bene, un bacio a Raffaele da Parma, che vorrebbe che io tenessi nelle mie mani il paese. Non ho il fisico. Arrigo da Lodi. Arrigo. Sì, buongiorno. Ma sentivo la considerazione del senatore Manconi sul fatto di turarsi il naso, questo è vero per la sinistra ma è vero anche per la destra. Chi vota il centrodestra probabilmente non è che... Io personalmente non ho grandissime simpatie per Berlusconi, perché lo ritengo una persona sopra le righe, esagerato, a volte anche ridicolo. Mi turo il naso e probabilmente voterò per, se non per lui, comunque per qualcuno che considero comunque in grado di essere più concreto rispetto a le solite visioni un po' così fantastiche del centro-sinistra. Qui c'è bisogno di concretezza, la gente cerca la concretezza. Per cui probabilmente... Per esempio nel nord ci sono dei leader del PD, non è che voglio fare propaganda elettorale per il PD, ma lo devo dire perché insomma è un dato della realtà, tipo Chiamparino a Torino, Penati. Dove sta lei, no? O Lodi fa provincia? Provincia ai 12. Scusi, non volevo offendere naturalmente, dico Penati, provincia di Milano, che la concretezza la danno, almeno pensano di darla. Non trova che c'è anche una piccola classe dirigente del PD che fa concorrenza alla destra sul terreno della concretezza? Assolutamente, ma infatti si voterà la persona concreta, si voterà chi avrà la concretezza, si voterà anche probabilmente turandosi il naso, ma questo succederà sia a destra e sia a sinistra probabilmente. Mi fai aggiungere? Per me è stato un errore comunque, io lo dico, fino a ieri sera abbiamo sentito Franceschini prendersela con Berlusconi su tutto e per tutto. Sembrava un'elezione politica, di elezione politica, non di elezione europea. Non abbiamo saputo niente di europeo, abbiamo solo saputo di tutta la Ma anche noi stiamo contribuendo. Adesso do la pubblicità e poi ripartiamo da Adriana Cerretelli e facciamo tutti uno sforzo, facciamo finta di essere francesi, tedeschi, facciamo finta. Elegante. un minuto, 10 minuti, non per mettere, ma sai, quelle discussioni in cui si parla appunto dei problemi dell'Europa, si legge il Parlamento di Strasburgo, mica si legge il governo italiano, no? Non c'è una maggioranza, una minoranza, che devo, non c'è, è un'altra cosa. 800 24 00 24, il voto europeo. Finora abbiamo parlato degli elementi, diciamo, più spinti, cioè più aguzzi dello scontro politico italiano intorno a questo voto europeo. Ma Adriana Cerretelli nel 24 ore di oggi scrive, nel Sole 24 ore di oggi scrive delle cose pertinenti. E cioè, nel 79 abbiamo cominciato a eleggere un Parlamento a Strasburgo, prima era un'elezione di secondo grado ed era una specie di, così, di grande camera sontuosa, burocratica. No, suffragio universale. Crescono i suoi poteri dal 79 ad oggi, legislativi e di bilancio, perfino politici, nel senso che può con una mozione di sfiducia mandare a casa la Commissione. L'80% della legislazione nazionale è di matrice comunitaria, cioè il Parlamento italiano, Camera dei Deputati e Senato si occupa di questioni che nascono nella legislazione comunitaria e che implicano l'assolvimento di doveri relativi alla legislazione comunitaria. E poi sapete tutti, euro, tassi di interesse, lotta all'inflazione, iperdeficit, mercato unico, studi, viaggi senza passaporto, norme sulla sicurezza, ambiente, consumatori, tutta roba europea che in Europa, oltretutto c'è la grande crisi economica, e beh, insomma, veramente io penso che avremmo preso delle botte da orbi se non avessimo avuto questa sorta di scudo protettivo che la Cerretelli chiama scudo provvidenziale tra una tempesta e l'altra. L'Europa come ammortizzatore regionale prezioso per stati dalla sovranità nazionale ormai insufficiente a tener testa da soli agli sconquassi mondiali. Mi rendo conto che tutto questo è meno sexy degli argomenti usati nella campagna elettorale italiana, ma è il vero problema, perché, e ce ne sono molti segni di vario genere già dai primi exit poll delle elezioni che si stanno tenendo in anticipo rispetto al sabato e alla domenica italiani, perché nonostante questo c'è questa terribile disaffezione. Cerretelli, io ho un'ipotesi, perché la gente percepisce l'Europa come l'Europa intergovernativa. Quella è l'Europa che fa veramente le cose, e il Parlamento invece, anche per un difetto di informazione, perché il Parlamento è solo il luogo delle grandi spese, dei grandi rimborsi, spesso è, diciamo, bistrattato qualunquisticamente dalla stampa e dalla televisione, insomma il Parlamento lo percepisce come una perdita di tempo. Prego, Cerretelli. C'è sicuramente questo fattore, però io credo che il disagio, il disinteresse, l'ostilità verso l'Europa siano diventati qualcosa di più profondo. Io credo che la gente non colga più il perché l'Europa e la necessità dell'Europa. Siamo tutti ripiegati su realtà nazionali più o meno edificanti, perché in questo momento purtroppo è vero che l'Europa diventa sempre più intergovernativa, però è altrettanto vero che non c'è in giro un leader, non c'è in giro un governo in grado, diciamo, di governare questa Europa. Ed è verissimo che la gente sente tutto questo e si ripiega sulle realtà nazionali, ed è vero che i governi, per esempio, a proposito del vostro dibattito, voglio dire, governi e opposizione nei paesi europei parlano esclusivamente di realtà nazionali, voglio dire, non parlano di Europa. La stessa crisi che secondo me ha visto per intero la teorica utilità dell'Europa, nei fatti ha visto l'Europa come una coperta che ciascuno ha cercato di tirare dalla sua parte. E sì, quindi è l'unico vero elemento che, europeo esempio, nella l'euro campagna è stato un grande ammortizzatore della crisi, ma è altrettanto vero, e questo non l'ho potuto scrivere per non annoiare troppo i lettori, è altrettanto vero che i piani di stimolo economico, gli aiuti di Stato, eccetera, sono stati tutti nazionali, e prima o poi pagheremo questo, perché il mercato unico ne risentirà, sarà meno mercato unico e più nazionale, la concorrenza sarà meno equa tra i vari sistemi paese, e quindi ci sarà veramente l'Europa che morderà sulle realtà nazionali, perché sarà meno Europa di quello che dovrebbe essere. Ieri Ceretelli, ieri a sorpresa, Berlusconi ha detto: facciamo Blair presidente d'Europa, eccetera, per 2 anni e mezzo, secondo ciò che sarà reso possibile dagli ultimi accordi di tipo costituzionale, un vero presidente dell'Europa. Io sono rimasto stupito, nel senso che poi Berlusconi sarà uno dei capi e uno dei personaggi più influenti del Partito Popolare Europeo. Non so se il Partito Popolare Europeo è d'accordo o se è un'alzata d'ingegno di quelle così da spiritaccio indipendente di Berlusconi. Siccome lui è amico di Tony Blair, gli piace Tony Blair, hanno passato delle deliziose vacanze proprio a Villa Certosa, dice: facciamo Tony Blair presidente dell'Europa. Ceretelli, è realistica questa cosa detta da Berlusconi? Ma diciamo che l'ipotesi di Tony Blair presidente circola da qualche mese, diciamo, negli ambienti europei, soprattutto inglesi, perché Gordon Brown si dice che se ne vorrebbe sbarazzare per sempre, anche se oramai credo che non avrà presto più il problema. Io credo che sicuramente avrà degli elettori, lo stesso Sarkozy una volta aveva parlato dell'ipotesi Blair. Personalmente dipende da come andrà l'Europa, se diventerà un'Europa sempre più intergovernativa come sembra, certamente Tony Blair potrebbe essere una figura che la rappresenta. Sotto tanti aspetti sarebbe un po' fuori luogo se volessimo un'Europa diversa, ma il problema è: che Europa si vuole oggi? Certo, i governi, certo, quale Europa inseguono? Certo. Potranno, per esempio, continuare a disfarla, diciamo, senza, come, diciamo, in modo quasi impercettibile, ma comunque piuttosto efficace, oppure dovranno, per la crisi economica e tutti i problemi irrisolti che si continua a tirar dietro, dovranno invece riscoprirla questa Europa e ritornare sulla vecchia idea dell'Europa più federale, dell'Europa più coesa? Cioè, dipenderà da che Europa vogliono la scelta del presidente, però non è peregrina. C'è un'altra questione lanciata da Berlusconi nel comizio di ieri, così un po' a sorpresa, a Milano con Bossi. Dopo Roma anche Milano, città africana. Voi sapete che in Olanda Geert Wilders, che è l'erede di Pim Fortuyn, il leader, diciamo, anti-islamico, che è stato, per anti-islamico non si intende essere contro la civilizzazione islamica, non eccetera. Si intende razzista. Ecco, non si intende razzista. Si intende che così, insomma, il modo in cui l'Olanda si è, virgolette, islamizzata, cioè il modo in cui in Olanda si è organizzata la convivenza interetnica, non va bene, suscita delle paure, delle diffidenze, o anche semplicemente delle opposizioni razionalmente argomentate. Vabbè, adesso il suo erede, questo Geert Wilders, ha preso il 15%, cioè di nuovo è il secondo partito in Olanda. Allora, questa battuta dura, demagogica, forse eccessiva, Milano città africana, Roma città africana, benché Roma sia effettivamente una città cosmopolita, una volta africana, una volta... Ma insomma, il punto qual è? Farina, si può giocare il voto degli italiani alle europee su questa questione o no? Farina. È svenuto? No, non è svenuto, è caduta la linea. Posso dire una cosa? Allora Manconi. La mia risposta è evidentemente no, e trovo addirittura abbastanza indecente il ricorso a un tale argomento, tanto più perché curiosamente viene dimenticato che Milano da 20 anni è amministrata dal centrodestra. Ha avuto sindaci della Lega a sindaci di Forza Italia da 20 anni. Dunque la responsabilità di questa eventuale africanizzazione della città di Milano dovrebbe ricadere sulle intere amministrazioni comunali, tutte saldamente nelle mani della destra. Dopodiché c'è un ragionamento generale che andrebbe fatto, sarò rapidissimo. A mio avviso, in questo blandire, titillare gli umori più selvatici di un settore dell'opinione pubblica, si potrà forse guadagnare qualche voto, ma certo non si elabora una strategia di governo delle città e del paese. Mi sembra proprio un calcolo non solo francamente indecente, ma anche di brevissimo respiro. Però questo successo di Geert Wilders in Olanda è qualcosa, dice Farina. Certo, dice che l'Europa è andata così avanti nella predicazione astratta dei diritti umani che sono vissuti dalla maggioranza delle persone come una specie di sopruso verso la loro propria vita, cioè c'è una specie di contrapposizione tra diritti umani, quello di quelli che vivono lì da generazione e quelli che arrivano, no? Con il risultato che siccome l'Europa sembra schierarsi sempre in una situazione di fatto di difficoltà con gli altri, subentra una sorta di reazione, un'esagerazione anche nel considerare le proprie difficoltà, no? Sembra quasi che l'Europa sottolinei una specie di diritto all'invasione. Tutto questo provoca una reazione uguale e contraria, no? Non c'è nulla da meravigliarsi. Io sono in Consiglio d'Europa e vedo l'esasperazione con cui quelli che nei singoli paesi non sono accettati come diritti umani, le coppie gay, sposate, eccetera, eccetera, per trovare legittimazione vanno in Europa, che gli dà il timbro di diritto umano, e poi tornano nei singoli paesi dicendo adesso dovete applicare perché l'Europa ha detto che sono diritti umani. Lo si vede anche nella questione dei respingimenti, anche se c'entra più l'ONU che l'Europa. C'è questo sentimento di una burocrazia lontana che non risponde alla volontà del al popolo, senso ma comune. Delle cose astratte. No, sentiamo, cioè, Margherita, sentiamo Margherita dalla provincia di Milano. Margherita, buongiorno. Sì, buona giornata. Io vi avevo chiamati nella prima parte della trasmissione francamente sconfortata. Lo dico perché mi sembrava che la trasmissione fosse fin troppo salottiera. Lei, dottor Ferrara, d'altronde l'ha sottolineato con l'autoironia che tanto apprezzo e che tanto trovo giusta nella fattispecie. Ho chiamato per dirvi, signori, qui però ci sarà qualcuno, e io ho molta fiducia nella vostra radio, che vorrà coltivare finalmente un'idea grande dell'Europa, perché comunque io ho quasi 72 anni, sono stata ragazzina quando si parlava dell'Europa come idea entusiasmante e mi aveva effettivamente entusiasmato questa idea, tanto che mi faceva dire io sono prima di tutto italiana, poi sono europea, poi sono cittadina del mondo. La trovavo una cosa molto bella. Quello che ci manca sono dei leader che sappiano far passare delle idee grandi, delle idee alte. Qua il problema, signori, è che noi non abbiamo più voglia di andare a votare. Io ci andrò perché ci vado anche azzoppata, perché mi hanno insegnato, in tutta la mia educazione mi ha insegnato che non solo è un mio diritto, un mio dovere, ma è soprattutto un mio diritto. Non potrò fare a meno, sono sempre dell'idea che condizionerò il resto del mondo con il mio voto, però forse sono una romantica, forse sono un'illusa. Allora, a voi è una preghiera proprio, uomini intelligenti, perché ci sono lì in redazione dei giornalisti che stimo molto, fate passare. C'è stato qualcuno che ha parlato di titillare le idee, non c'entra niente. Vede Margherita, adesso chiediamo a Adriana Cerretelli un parere, ma qui il problema è questo. L'Europa non ha dato ideali, ha dato più che gli ideali, ha dato i fatti. Cioè non c'è più la guerra in Europa. L'Europa del Novecento è stata, le guerre erano eurocentrate, non c'è più la guerra in Europa, nessuno ha più paura dei rapporti politici o di interesse fra Francia e Germania, nessuno ha più paura dei conflitti. Sì, ci sono stati conflitti nei Balcani, ma insomma insomma, voglio dire, l'Europa ha dato i fatti, la prosperità e la pace, ed è curioso che non venga riconosciuto questo. Ha dato un fatto fondamentale, perché senza l'euro la crisi economica e finanziaria attuale sui paesi europei si sarebbe rovesciata con una violenza indubbiamente assai superiore. Sì, e purtroppo la politica, questo è davvero un gravissimo limite, non ha saputo in questa campagna elettorale, ma nemmeno prima, trasmettere questo messaggio elementare. L'Europa è, per esempio, l'euro, che ha tutelato i cittadini europei più di qualunque altra moneta nazionale. Su questo, cioè su un fatto, come dice lei Ferrara, concreto, concretissimo, ha voglia che c'è la possibilità di costruire anche prospettive e soprattutto il discorso. Però la cosa curiosa a Manconi è che appunto queste cose ci sono ma non si vedono. Questo è il vero paradigma dell'Europa, la cosa strana. Bene, Adriana Cerretelli, su questa Europa che ha dato pace e prosperità, ma che non si vede, non si vede questa sua funzione decisiva nella nostra vita, una testimonianza che la prego di ascoltare insieme con me, di Ivana da Latina. Ivana. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono tornata adesso da un viaggio dalla Turchia, circa una settimana. Sono stata, diciamo, ad Antalya e poi ho fatto un viaggio nell'entroterra in Cappadocia. E sono rimasta sconvolta perché ho trovato un paese 10 anni avanti a noi, pensavo di trovare un paese sottosviluppato, sinceramente, un paese 10 anni avanti a noi, di una pulizia incredibile, tutto in costruzione, c'è un boom economico da paura, palazzi con sopra tutti i pannelli solari, boiler, lì certamente non faranno sicuramente il nucleare, e autostrade gigantesche, persone squisite, non c'è in giro una persona diciamo sporca o un mendicante, non c'è nessuno, proprio è pulitissima, e in più sono al confine con la Romania e i rumeni lì non ci vanno. Io mi chiedo, ma possibile, dobbiamo fare accoglienza? Ma possibile che dobbiamo essere noi l'unico paese che fa accoglienza con tutti questi 100 milioni di persone che stanno, vagano per le strade, che fanno anche delitti efferrati? Vabbè, comunque la cosa interessante è che lei dice, sono andata in Turchia e non sono entrata in Europa, forse questa è stata la loro fortuna, perché va tutto bene, eccetera, eccetera. Adesso non so se sia perfetta la sua diagnosi, ma Cerretelli, sente, addirittura un viaggio in Turchia è una testimonianza di sfiducia nell'Europa così forte. Ma la Turchia, come è noto, è il grande dilemma, farla entrare sì o no. Io sono stata varie volte in Turchia, amo molto la Turchia, non ho avuto questa visione così idilliaca, ma naturalmente dipende da quello che si vede. Ecco. L'Europa è in grado, perché secondo me il problema vero è oggi l'Europa, questa Europa è in grado di assorbire la Turchia, perché sicuramente l'ingresso della Turchia sotto tanti aspetti è necessario all'Europa, prima di tutto dal punto di vista strategico, però secondo me il problema non è un problema turco, è un problema europeo. L'Europa oggi ha strutture, valori, una civiltà in grado di assorbire un grandissimo popolo, perché la Turchia è un'altra Germania, siamo in grado di farlo, secondo me è questo il punto centrale di tutto il dibattito, non vedo altro, La mia risposta è: l'Europa come la vedo oggi non è in grado, l'Europa è la prima a doversi preparare all'eventuale ingresso della Turchia, non è la Turchia, anche la Turchia naturalmente deve farlo, ma siamo noi che non siamo pronti ad assorbirla. Folli, le conseguenze del voto, le conseguenze politiche sulla situazione italiana, naturalmente non è che cade o sta un governo sulla base del voto europeo, però insomma, se ci fossero risultati particolari ci sarebbero conseguenze particolari e corrispondenti, immagino. Lei come la pensa? Sì, no, penso che dipende molto da quello che dicevo prima. Insomma, la Lega è un partito che è fortissimo nel nord oggi, questa è una coalizione che ha un'anima nordista. Però la capacità di Berlusconi di rappresentare una sintesi nazionale fino adesso è stata la sua forza. Certo. No? Se adesso questo equilibrio si sposta troppo, sia pure in un ambito, diciamo, di un'elezione che non investe il Parlamento nazionale, l'abbiamo detto, però indubbiamente dal punto di vista del messaggio... Se la Lega espugna qualche luogo in Emilia-Romagna questo sposta l'equilibrio. D'altra parte, a sinistra è chiaro che il Partito Democratico, se dovesse mantenere magari già al primo turno, ma anche al secondo, insomma, Firenze e Bologna, questo sarebbe un segnale per loro abbastanza importante, no? di tenuta, e questo quindi è un elemento che si lega all'altro campo, che è quello delle amministrative, che è un campo molto importante dove si verificherà effettivamente lo stato delle cose a sinistra, nel centro-sinistra. Farina, ammettiamo che il PDL vada male, Fini cosa farà? C'è un periodo ipotetico del terzo tipo, perché nulla fa pensare a questo. No, tutto fa pensare al contrario, ma noi mettiamo le mani avanti, ci contrassicuriamo. Secondo me Fini osserva e aspetta che tutto questo porti a una diminuzione della forza di Berlusconi. È inevitabile, tutta la politica gioca su questa scommessa, quanto dura, 30 anni, 50, 100, alcuni pensano molto meno, ecco. Credo che Fini sia tra queste, lo fa non per motivi di potere personale, ma perché ha un disegno politico. E ultima domanda, lei e agli altri nostri ospiti, un buon successo del PDL spazzerà via tutta la campagna su Berlusconi e renderà inessenziale ulteriori ricostruzioni, risposte alle 10 domande, eccetera, eccetera. Manconi. Ritengo assai probabile che queste vicende, diciamo così, private e pubbliche di Berlusconi non producano un'emorragia di voti. Però una lesione l'hanno prodotta, e secondo me questa lesione non è facilmente superabile, cioè nella rappresentazione ideologica costruita da Berlusconi in questi anni e anche nella sua capacità di rappresentanza onnicomprensiva di gran parte del paese, delle sue culture, dei suoi umori e delle sue pulsioni. Queste vicende hanno comunque inferto una qualche ferita. E il voto, lei dice, non credo che non ci saranno effetti significativi. No, ma lei dice non la cura, anche se il voto fosse molto buono per Berlusconi, sopravviverà a questo stato di difficoltà. Sì, ritengo sì, perché contrariamente a quello che si crede, io penso che il Popolo della Libertà sia, come tutti i partiti necessariamente, un soggetto che gioca su interessi e valori. E il risultato finale è una sorta di ideologia. In questa ideologia, queste vicende hanno introdotto comunque una contraddizione. Un elemento di destabilizzazione. Folli, un PDL al 43-44% vuol dire che Berlusconi fa un bel sorriso e riconquista, diciamo, la centralità di proscenio senza che ci siano questi numerosi fischiatori da sinistra che adesso gli rimproverano. Dal punto di vista politico un 42-43% sarebbe un grande successo, e quindi il successo cura molte malattie. da un punto di vista non, da un punto di vista poi però più di contenuto, io credo, ecco, che quella sobrietà a cui prima resterà un problema, invitavamo il Presidente del Consiglio con molto rispetto, ecco, resta un problema. Io penso che il tema della sobrietà e dei comportamenti pubblici e anche, diciamo, la capacità di ricostruire un'immagine internazionale, perché anche questo è un elemento. Resterà un problema. Quale anche che sia, al di là della io vittoria. Penso che l'immagine internazionale sia un bel problema da ricostruire. Grazie a Stefano Folli, a Luigi Manconi, a Renato Farina e a Adriana Cerretelli. Grazie a Franca Fossati e Gloria Guerrera in redazione, a Chiappini, Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei in regia. Grazie a tutti voi, Linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0 a lunedì. Baci.